1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci qua, cari ascoltatori, alle 7:18 minuti dopo lo scoppiettante Forchielli che ci ha raccontato, secondo lui, come la Grecia sia un gattino attaccato ai maroni. Beh, parleremo anche noi di Grecia, eh? Avremo ospite dalle 9, perché andiamo avanti fino alle 9:30, ormai lo sapete, sono come una tiritera stanca. Udo Gumpel, giornalista tedesco, e Elsa Fornero, l'ex ministro delle pensioni, al welfare, chiara associazione di elementi. Perché ieri il professor Boldrin ha detto: va bene, aiutiamo la Grecia, ma la Grecia tagli subito le pensioni, per esempio, riformi le pensioni. E pensate che Elsa Fornero, che le pensioni le ha riformate in Italia, invece dice che non deve essere così in Grecia. Lo ha detto in un'intervista la scorsa settimana, l'abbiamo chiamata alle 9:05, sarà con noi. Prima parleremo di università. Sapete che c'è stato un emendamento, forse rientrerà, ma insomma, che vuole rendere non più equiparabili le lauree prese in tutta Italia, nel senso che forse ci sono delle università migliori e delle università peggiori, e non è il caso di tenerne conto se si fa un concorso pubblico. Parleremo di questo, parleremo di abusivismo edilizio, insomma parleremo di tanti argomenti, come al solito, col vostro contributo dalle 8:15 con tanti ospiti. Intanto però è il momento della lettura dei quotidiani. In questo martedì 7 luglio i titoli sono quasi tutti declinati ancora sulla Grecia. Il no affonda la borsa, ma lo spread tiene a 162, l'apertura del Sole 24 Ore, mentre il Corriere della Sera: la trattativa segreta della Grecia. Per Repubblica: caos Grecia, linea dura dell'Unione Europea. Il Giornale: sono nel pallone lo schiaffo greco, e sono nel pallone i leader europei. Basta soldi a Greci e Merkel, così titola Libero in prima pagina. Il Messaggero: Grecia ora l'Europa tratta. La Stampa: 30 miliardi per salvare Atene. Il Fatto Quotidiano: ora tutti contro la Merkel. Mentre il Manifesto mette la foto di Varoufakis che va via in moto con la moglie, è una delle foto più gettonate. La Grecia in moto, questo è il titolo del Manifesto, mentre Grecia, il dovere di trattare, è il titolo di apertura di Avvenire. L'Unità invece: svegliati Europa, questo è l'appello in prima pagina dell'Unità. Come vedete, tutti i titoli sono con l'apertura sulla Grecia. Partiamo però da altre cose. Come sempre, per esempio, il Comune di Roma, di cui si è molto discusso, poi questa vicenda della Grecia porta un po' in là nelle pagine la vicenda del Comune di Roma, ma sono giorni, e lo dico, decisivi. Ebbene sì, perché da oggi parte la discussione che si fa sulla base della relazione voluta dal precedente prefetto e che porterà l'attuale prefetto Gabrielli a dare un parere sullo scioglimento o meno del Comune di Roma dopo le vicende di Mafia Capitale. Poi sull'eventuale scioglimento, dovesse arrivare questo parere del prefetto Gabrielli, dovrà scegliere e dovrà decidere il Ministero dell'Interno. Sciogliere il Comune di Roma. Questo è il titolo di pagina 21 del Corriere della Sera, ma pesano i dubbi di Gabrielli. Pare, secondo Giovanni Bianconi, ma anche secondo Carlo Bonini su Repubblica, che a questa conclusione arriverà la commissione che deve ora dare appunto un parere sulla base della relazione di Mafia Capitale. Giovanni Bianconi, Corriere della Sera, pagina 21. Il sindaco ne fa parte di diritto, ma oggi non ci sarà. Ignazio Marino ha fatto sapere che per comprensibili motivi di opportunità preferisce non partecipare al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, nel quale si giocherà il destino della sua giunta e del Consiglio Comunale che la sostiene. La riunione è stata convocata a norma dell'articolo 143 del Testo Unico sugli Enti Locali, quello che regola lo scioglimento per mafia. Il prefetto, sentito il Comitato Provinciale Integrato, invia al Ministro dell'Interno la relazione nella quale si dà conto dell'eventuale sussistenza di elementi per far decadere l'assemblea elettiva. e il documento del prefetto di Roma Gabrielli sulle conseguenze politico-amministrative dell'indagine su Mafia Capitale è pronto. Il vertice convocato per oggi è il passaggio formale che precede la trasmissione al Viminale. Quindi dopo la riunione di oggi Gabrielli trasmetterà al Ministero dell'Interno la sua conclusione, che potrebbe essere anche: bisogna, a mio parere, sciogliere il Comune di Roma. Ci sono dei dubbi, ovviamente. Carlo Bonini scrive che tutto è un segreto. In questo momento la commissione prefettizia ha lavorato in segreto. Ignote sono per il momento le posizioni di Gabrielli, ma secondo Repubblica sarebbe giunto a conclusioni severe che di fatto raccomanderebbero lo scioglimento del comune. Conclusione su cui, questa è la commissione, su cui al contrario il prefetto Gabrielli nutrirebbe alcuni dubbi sostanziali. E allora il sentiero di fronte a Gabrielli è assai stretto, perché al contrario di quanto si è sostenuto sarà solo sull'ipotesi di inquinamento mafioso che il prefetto sarà chiamato a pronunciarsi. Quindi è un giorno importantissimo per Roma, al termine del quale il prefetto Gabrielli dirà la sua, comunicando al Ministero dell'Interno che bisognerebbe fare su Roma Capitale. Cari cittadini di Roma che oggi andate a lavorare, siete magari in macchina sul grande raccordo anulare, siete magari già bloccati nel traffico, già da un po'. Oh, intanto Renzi è un pochino sparito dagli orizzonti della comunicazione. Vabbè, oggi andrà ovviamente da Angela Merkel, da Hollande, da tutti per il vertice europeo con Tsipras oggi pomeriggio, ma tutti i giornali raccontano che ieri Renzi ha fatto che cosa? Una sorta di seminario sulla comunicazione ai propri parlamentari del PD. Li ha tutti convocati, ha parlato della Grecia, ha parlato di alcune cose, però ha detto anche una cosa importante. I talk show sono fondamentali e voi andate lì e non siete preparati. E soprattutto ha usato delle metafore calcistiche. Basta catenaccio. Chi va in TV deve studiare, deve essere preparato. Basta il tiki-taka, cioè il gioco del Barcellona. Bisogna attaccare. Bisogna... e tra l'altro ricorda... Attaccare! Ecco, per l'appunto. Quindi è un Renzi berlusconiano in questo. Bisogna attaccare. Facciamo tiki-taka. Eccolo qua, il Fatto Quotidiano, pagina 6. Ma forse l'articolo migliore su questo lo scrive Monica Guerzoni a pagina 16 del Corriere della Sera. Manca la narrazione, il premier fa il coach al Nazareno, il PD non sa più come comunicare, se n'è accorto il segretario Renzi, che è anche il presidente del Consiglio, che ieri è salito in cattedra e tenuto ai suoi parlamentari una lunga lezione su come si parla o non si parla in TV. Il catenaccio non funziona, ha detto Renzi ai deputati, dobbiamo cambiare schema, partire all'attacco, tenere il possesso palla, stando attenti a non cadere alle provocazioni. I talk show, che Renzi avrebbe definito ancora recentemente a Berlino, parlando all'Università Humboldt, un grande pollaio senza anima, dei quali lui salva solo gli spot, perché fanno da cuscinetto tra una rissa e l'altra. Per esempio, ha fatto vedere delle slide con un maxi gufo. Il maxi gufo che torna. I nostri avversari sono quelli che sperano nel fallimento dell'Italia. Il loro nido è il talk show, non il Parlamento. Renzi che dice basta, preparatevi e andate ad attaccare in TV. Pare addirittura che a fine agosto abbia convocato un seminario più serio, più compiuto sulla comunicazione, su come si devono preparare i parlamentari che devono andare in TV. Vabbè, parliamo di questo arresto, no, lo cito solo, l'arresto di Jalal El Hanawi, 25 anni, fermato ieri a Ponsacco, in provincia di Pisa. Reclutava persone, o cercava di farlo, per il jihad, per il terrorismo, per incitarli a fare la guerra santa, lo faceva dall'Italia. Guerra santa sul web, un arresto a Pisa, e anche il titolo del Messaggero, ma anche il marocchino integrato che incitava al jihad, integrato ovviamente tra virgolette, è il titolo di pagina 13 di Libero. Mi permette di andare all'articolo che ci fa tenere le mani sul volante, l'articolo che ci fa più incazzare di questa giornata, è peraltro uno scoop del Corriere della Sera. che riesce a intervistare via Skype con Marta Serafini, l'intervista pagina 18, Lady Jihad, Fatima, l'italiana in Siria, convertitasi e poi andata a combattere al fianco dell'ISIS, la cui famiglia è stata tutta arrestata in Italia. Parla Fatima. Noi quando decapitiamo qualcuno, dico noi perché anch'io faccio parte dello Stato Islamico, quando facciamo un'azione del genere stiamo obbedendo alla Sharia. Così inizia il colloquio con Maria Giulia Sergio via Skype, un po' disturbato, conversazione un po' difficile, ma alla fine risponde, chiede notizie della famiglia, dice ma no, ma noi al telefono chiedevamo solo, cercavamo di capire come la mia famiglia avrebbe potuto fare una buona vita qui nello Stato Islamico. Comunque lei giustifica le violenze, giustifica le decapitazioni, dicendo i decapitati sono ladri, ipocriti, spie dello Stato, nello Stato Islamico, riportano le informazioni ai miscredenti per poi attaccarci, e aggiunge lo Stato Islamico, sappi, è uno Stato perfetto, qui non facciamo nulla che vada contro i diritti umani, cosa che invece fanno coloro che non seguono la legge di Allah. Tu sai che tutto il mondo ci attacca, lo sai, vero questo? Due giorni fa è arrivato un aereo autocomandato, un drone carico di esplosivo per distruggere non so quante, e qui finisce la comunicazione via Skype e verrebbe da dire grazie a Dio. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Alessandro Milan, il Angela Merkel dell'informazione. Ebbene sì, chissà, l'avete vista la foto di Angela Merkel? Io non riesco a uscire, circola sui giornali e su Twitter e sui siti, un'Angela Merkel ieri tutta scompigliata nei capelli, appena sveglia, quando evidentemente doveva affrontare il dossier greco. Ecco, a proposito del dossier greco, oggi si vedono tutti per questo vertice, dopo che Merkel e Hollande se le sono dette un po' tra di loro, senza coinvolgere gli altri. Eccolo qui che adesso il vertice è allargato a tutti, perché come dicevo ieri nessuno sa cosa succederà ora dopo la vittoria del no nel referendum della Grecia. Bisogna capire che succede. Beh, alcune cose già si vedono, per esempio Draghi e la Banca Centrale Europea non hanno concesso nuovi fondi di emergenza. È stata confermata la soglia di 89 miliardi, 88,6 per la verità, per ora forniti agli istituti di credito ellenici, il tetto dell'ELA, cioè la liquidità di emergenza. C'erano per esempio i tedeschi che volevano non solo non confermarla, ma volevano anche ritirarli questi soldi, perché la Grecia è considerata ormai insolvente, è ormai considerata fuori dalle regole. Ha prevalso la linea, c'era anche chi voleva aumentarla questa linea di credito, ha prevalso una linea mediana, cioè non ritiriamo i soldi però non li aumentiamo, non vi diamo neanche un euro in più. E infatti le banche greche che dovevano aprire oggi, secondo l'annuncio del governo prima del referendum, non apriranno oggi e non apriranno forse fino a giovedì. Intanto al ritmo di 50.000 disdette al giorno il turismo greco, ecco, va verso un'estate di, come dire, difficoltà. Sono 50.000 in media al giorno le disdette dei turisti da tutto il mondo in Grecia. Comunque, che succederà oggi al summit dei capi di Stato e di Governo? Quei sospetti di Berlino per il vertice salva euro, Danilo Taino, pagina 3 del Corriere della Sera. Angela Merkel ieri è andata a Parigi a incontrare François Hollande. La posizione è oggi pomeriggio nel vertice. Si svolgerà tra sospetti e sfiducia. Tutti i governi che vi partecipano hanno agende politiche nazionali che terranno in gran conto. Le stesse dimissioni di Varoufakis, scrive il Corriere, sono state viste come un ulteriore colpo di teatro che non cambia sostanzialmente le cose, ma l'obiettivo di tenere alta l'attenzione dell'opinione pubblica lontana dalla realtà dei problemi. Il dato di fatto è che per ora la Banca Centrale Europea non ha dato altra liquidità agli istituti di credito greci. La linea di Draghi, secondo Repubblica, è quella della difesa dell'euro ad ogni costo, e si analizza pagina 2 e 3 di Repubblica con Andrea Tarquini proprio che cosa? La decisione di non dare più soldi, ma neanche di ritirarli. C'era la linea ovviamente di Jens Weidmann, che è il capo della Bundesbank, quindi la banca centrale tedesca, che voleva da Falco ritirare addirittura questi 88,6 miliardi del fondo di liquidità di emergenza. La linea invece che è passata alla Banca Centrale Europea è quella di non dare un euro in più, ma non ritirare almeno questo, perché sarebbe stato il tracollo per la Grecia. Jens Weidmann voleva invece il ritiro di tutto ciò. La difesa dell'euro ad ogni costo, questa è la linea di Mario Draghi per Repubblica. Oggi Tsipras però si presenta come? Si presenta, secondo Federico Fubini sul Corriere della Sera, pagina 5, con una carta segreta. Un nuovo piano. Tutti ora attenderanno Tsipras per capire che cosa avrà da offrire. Alexis Tsipras sta cercando di avviare con i suoi colleghi europei, scrive Fubini sul Corriere, una nuova partita a scacchi. Varoufakis è uscito di scena, non senza eleganza, sottolineando come gli sia stato spiegato che la sua presenza a Bruxelles non è più gradita. Al suo posto ha preso funzione Euclid Tsakalotos, greco cresciuto in Gran Bretagna, formatosi a Oxford, perfettamente bilingue e rigorosamente, come Varoufakis, marxista-leninista. Tsakalotos è considerato tra gli intransigenti del gruppo intorno al Premier, ma anche costruttivo e affidabile perché crede nell'Europa. E allora la carta segreta per Bruxelles di Tsipras sarebbe questa. Tsipras proporrà una sorta di piano Juncker, quindi presidente della Commissione, ma rivisto con modifiche che valgono circa 1 miliardo di sacrifici in meno per la Grecia. Sarà tutto questo abbastanza per riaprire la trattativa per gli europei? Staremo a vedere. Intanto Romano Prodi da qualche giorno continua a mostrare anche la propria sfiducia in quella che è l'Europa, che dà molta amarezza. Lo fa oggi in un'intervista con Avvenire, intervistato da Eugenio Fatigante, a pagina 3. Prodi dice: siamo condannati a riaprire le trattative, basta vertici a due, e si riferisce ovviamente ai vertici Merkel-Hollande. Ora idee nuove. Non c'è dubbio, la posizione negoziale di Tsipras diventa più forte, dice Prodi, ma anche un'amarezza c'è se si riparte dai vertici a due franco-tedeschi. Ho l'impressione che non si sia imparato molto. Non è questa l'Europa che sognavo, per la quale abbiamo lottato. La sorpresa, dice Prodi, è che nessuno si aspettava uno scarto simile al referendum. È stato un segno forte di unità del paese. Ho sempre sostenuto però che sia che vincesse il sì, sia il no, si sarebbe dovuto ricominciare a trattare. Questa è la linea di Romano Prodi su Avvenire. Poi, vabbè, trovate un po' ovunque la figura centrale che ieri si è dimessa, no? Il capro espiatorio, l'agnello sacrificale da sacrificare da parte di Atene sull'altare del tentativo di aprire una trattativa, vale a dire Varoufakis. Varoufakis oggi lo trovate in tutte le salse, va via in moto con la moglie, arriva in moto con il nuovo ministro, il suo sostituto. C'è Varoufakis, questi 5 mesi di varoufakismo, tra t-shirt, moto, muscoli, il professore che sfidò l'Unione Europea sul Messaggero a pagina 4, le foto con le camicie di fuori, le foto con le magliette, le foto con le camicie strampalate, le foto con la camicia rossa del 93 in cui assomiglia a Freddie Mercury de Noantri, la foto in cui assomiglia a Bruce Willis, la foto in cui assomiglia a Checco Zalone, insomma un misto di tutto questo, e la foto in cui assomiglia al pornostar 30 lance, mettete tutto questo, mischiate, avete 5 mesi di Varoufakis, il narciso Varoufakis, come è definito sulla stampa, fallisce ma lascia la scena da eroe. Oppure ascesa e declino di Yanis, moderato ma eccentrico, il ritratto sul Fatto Quotidiano. Ovunque c'è un Varoufakis che esonda. A me piace ricordarlo con la faccia e la pettinatura del 93 e la camicia rossa del Freddie Mercury de Noantri, che ho pubblicato anche sul mio profilo Twitter, Alino Milan. Qual è la posizione dell'Italia invece? Pare che la posizione dell'Italia, la spinta di Renzi oggi in Europa, sarà di due tipi. Per Marco Galluzzo sul Corriere della Sera, Renzi andrà a dire: o l'Europa cresce oppure è finita. Questa è la prima posizione dell'Italia. E invece, secondo Repubblica, Francesco Bei e Goffredo De Marchis, la linea italiana sarà quella di offrire un piano Marshall, quindi aiuti umanitari per la Grecia, mettendo in campo tutte le leve a disposizione, dai 35 miliardi di fondi strutturali, il potenziamento del piano Juncker, il ruolo della BEI, insomma, a questo punto ci vuole un cambio di marcia e anche un aiuto notevole alla Grecia. Eccolo qui, Ervarufakis de Noantri, Mauro Meazza, no? Buongiorno. Vabbè, però sono lusingato da un certo punto di vista, perché sicuramente un personaggio notissimo. Dall'altra, insomma, vedevo proprio sul Sole 24 Ore oggi questa foto che ritrae non in versione, come piace a te, appunto, alla Freddie Mercury, ma invece in moto. Successore. È vero, è bella, senza casco, che peraltro è senza casco, sì, effettivamente anche io stavo anche la moglie questo. Senza casco, ma non è che in Grecia di quello dietro può stare senza casco? No, non ho idea, non so. Guarda, noi oggi tra l'altro sul Sole 24 Ore parliamo anche di codice della strada, volevo dirtelo più avanti, ma c'è una pagina all'interno delle pagine di norme e tributi, e tra l'altro ci occupiamo. Ti ricordi che il Comune di Roma aveva provato a fare questo sistema, mandateci via Twitter le infrazioni, le macchine in sosta vietata? Ecco, non si può, cioè non è che si può fare io vigile urbano, ecco, non è una cosa che è lecita, ma lo capisci leggendo poi norme e tributi. No, tornando alla Grecia, stavo vedendo tra le molte pagine che si può fare, tu sai che Sole 24 Ore già da qualche giorno, insomma, veramente da qualche mese, ma insomma ha rilanciato da qualche giorno l'idea di avere una lettura un po' diversa del patto di stabilità, ripartire con gli investimenti. Ecco, anche oggi diciamo che riproponiamo questa posizione che ci sembra ragionevole, cioè si tratta di investire al di là del problema del debito della Grecia, qui bisogna avere del coraggio, delle scelte coraggiose, appunto. Ma è tutto spiegato su Sole 24 Ore. Tra l'altro, tu hai capito come mai le nostre banche, le banche italiane sono più esposte sulla questione greca, anche se hanno meno titoli del debito greco? Non l'hai capito, no, secondo lo so, me. Provochi. Guarda, fai una cosa, leggi ecco. A pagina 2 del Sole 24 Ore, ti spieghiamo perché c'è un problema di esposizione in titoli di Stato. Comunque te lo spiegano benissimo oggi Luca Davi, Vito Lops sulla pagina 2 del Sole 24 Ore, speriamo che un accordo comunque si trovi, una via d'uscita comunque si trovi naturalmente. Oh, domani sai che è un giorno, dillo tu, decisivo? Sì, ma sai per cosa? Per lo stadio del Milan. Ah, al perché, portello. Sì, lo riferiamo sulle pagine Imprese Territori che tu snobbi, io lo so che tu le snobbi, invece non dovresti farlo perché il Milan ha lanciato una sorta di ultimatum, vuole una decisione entro l'8 di luglio, che se non sbaglio a guardare il calendario dovrebbe essere proprio domani. E poi invece giorno abbastanza importante perché che mi risulti è il primo, sabato 11 luglio, sciopero all'IKEA. Infatti guarda, sabato l'IKEA chiusa, ci sono 30 milioni di uomini che ringraziano, di mariti che ringraziano, compagni che ringraziano. Lo so, era un assist meraviglioso questo e io ho voluto passartelo. Un pallone dove c'era scritto cioè, sabato con l'IKEA chiusa, cioè capisci che il mondo a volte... Sì, possiamo promettere... No, potrebbero anche trovare un accordo, in realtà è una cosa molto seria, ne parliamo nelle pagine di problemi del lavoro, di Imprese Territori, appunto nelle parti dedicate alle questioni del lavoro, perché c'è in ballo il contratto integrativo e quindi insomma la questione è abbastanza seria. Poi adesso i celi, speriamo che nessuno se la prenda per questo. Oh, ti voglio dire che se ricevi un avviso bonario dal fisco potresti pagarlo anche a rate, ma questo lo scoprirai leggendo. Bonariamente, certo, però lo devi pagare comunque, anche se a rate, e questo lo scoprirai leggendo norme e tributi. E poi in ultimo ti voglio ricordare che oggi è martedì e quindi come ogni martedì il condominio. Oh, bravissimo, leggi la pagina del condominio, ci occupiamo tra l'altro della morosità in caso di forniture idriche e non è una cosa così liquida come potrebbe sembrarti. Va bene, ma tutto ciò premesso, caro Alessandro, traffico. Alessandro Milan, l'Alessandro Milan dell'informazione. Eh beh. 02 4652 4492 è la nostra segreteria telefonica. Potete dire quello che volete, poi ascolteremo qualcosa. Potete mandare le vostre sigle. Intanto, se dobbiamo parlare un po' ancora dalla lettura dei giornali, qualche articolo che mi ha colpito, beh, c'è poco, perché per il resto è tutta politica legata alla Grecia. La politica italiana è legata al fatto che sia De Luca che Emiliano, cioè governatori della Campania e della Puglia, hanno cercato di fare, in un caso hanno fatto la giunta. De Luca ha presentato la giunta, di cui colpisce, come scrive il Corriere, l'esiguo numero di assessori, solo 8, 5 infatti con accorpamenti, e colpisce anche l'alto numero di donne che li guidano, 6 assessori. Il vicepresidente sarà Fulvio Bonavitacola, che è salernitano, fedelissimo di De Luca, che quindi in caso di decadenza, il 17 luglio infatti ci sarà una nuova udienza per la questione della annosa legge Severino e la sua condanna in primo grado, se il 17 luglio Vincenzo De Luca dovesse essere sospeso nuovamente in base alla legge Severino, continuerà il vicepresidente, continuerà la giunta. Mentre invece Emiliano che ti ha fatto? Emiliano ha nominato 3 assessori donne su 10 del Movimento 5 Stelle, solo che non gliel'ha detto. È abbastanza. Beh, sapete che anche qui a questi microfoni aveva detto varie volte: proverò a coinvolgere anche il Movimento 5 Stelle per salvare anche la parità di genere, visto che nel centro-sinistra in Puglia non hanno eletto neanche una donna. E allora Michele Emiliano ha detto: scelgo 3 assessori del Movimento 5 Stelle, Antonella Laricchia, delega all'ambiente, Rosa Barone all'agricoltura, Viviana Guarini alle risorse umane. Solo che il Movimento 5 Stelle gli ha comunicato: questo è un atto di violenza inaudita e quindi rinunciamo, ed è un no secco a queste nomine. Vabbè, siamo a questo tipo di livello, per cui uno nomina delle persone che non lo volevano e quegli altri rifiutano, dicendo è una violenza inaudita. Le notizie di cronaca che mi hanno colpito, questa inchiesta Paolo Russo a pagina 13 della Stampa, doping per 185.000 atleti, in Lombardia l'ultima retata, un'inchiesta della Procura di Brescia sul mondo dei dilettanti nello sport che ha portato all'arresto medici, farmacisti, un giro smascherato che interesserebbe ciclisti amatoriali e sportivi dilettanti, a conferma del rapporto difficile tra gli italiani e lo sport. Come dicono i dati del Censis, siamo un popolo di sedentari che nel 40% dei casi pratica solo l'ozio o tutt'al più lo sport della domenica. Ed eccolo allora l'ennesima retata, l'ennesima operazione, scrive la Stampa, antidoping iniziata in gran sordina e ieri avrebbe portato già una decina di arresti tra medici e farmacisti lombardi. Primi accusati di prescrivere quel che non si dovrebbe per normale attività sportiva. I secondi di essersi attivati per procurare sostanze dopanti come l'EPO, il più richiesto. L'operazione però potrebbe portare a stretto giro a coinvolgere altri professionisti del doping con nuovi arresti in attesa di essere validati dal GIP. Ci sono gli sport dove più si pratica l'uso del doping: bodybuilding, arti marziali, ciclismo. Questo secondo il Censis e secondo la Stampa è un'inchiesta che inquieta non molto, inquieta parecchio, e viene raccontata dalla Stampa. Sempre sulla Stampa colpisce a pagina 22 una questione di costume, ma non solo. Ormai è il modo più gettonato per molti italiani di spostarsi e anche di ricevere persone e quindi turisti, l'utilizzo di Airbnb. È questa piattaforma nata in America che permette di ospitare in casa propria o in una casa che uno ha per fortuna ed è sfitta ed è assolutamente vuota per 2, 3 giorni, 4 giorni attraverso l'utilizzo di questa piattaforma, dando appunto una casa in un affitto temporaneo, no? Come si può dire, in 3 giorni. Il boom italiano di Airbnb in vacanza a casa di altri. Siamo il terzo paese al mondo per giro di affari dopo Stati Uniti e Francia. Si guadagna fino a 400 euro la settimana. L'offerta è raddoppiata in un anno. Beniamino Pagliaro racconta, pagina 22 della Stampa, come sia davvero aumentata esponenzialmente l'offerta di italiani che danno o una parte della loro casa o una casa vuota, per chi ne ha 2 o di più, in affitto temporanea ai turisti che arrivano attraverso questa piattaforma Airbnb. E c'è anche un'intervista a Matteo Stefanelli, che è il country manager, e dice: le ragioni del successo, a volte il lusso non è la suite, ma poter avere un posto dove cucinare da sé. Il successo di Airbnb sulla stampa. Ma siamo al momento dell'articolo che vince il premio, la carta costa. L'articolo più inutile scovato sui giornali, sono fatto io così, scusate, sono fatto così. Ma io odio gli articoli sul caldo, quando fa caldo, sul freddo, quando fa freddo, sulla pioggia, quando piove, e sul sole, quando c'è il sole. Li odio, non riesco a concepirli. L'aria del Sahara in città, una pagina del Corriere della Sera, Alessio Ribaudo. Fa caldo, è estate, fa molto caldo, fa ancora più caldo, è estate, fa caldo, fa caldo. Ma chi se ne frega!